Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Dal cucchiaio di mascara al tendine d'Achille di Beckham, in 48 ore è successo di tutto, no? Un po' di farsa, un po' di dramma, e in ogni caso è ricambiata faccia al campionato. Le statistiche preparate da Franco Piantanida raccontano per esempio che dal derby perso con l'Inter alla 21esima giornata il Milan ha recuperato la bellezza di 8 punti su 9, e proprio da quel derby cominciò questa flessione interista che ha portato 2 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta in 7 partite. Paio di settimane fa si diceva, non tanto paradossalmente, ma certo ancora con molto beneficio all'inventario, ci si domandava, almeno io mi domandavo, se l'Inter per caso avesse intenzione di rimettere in palio uno scudetto già vinto. Beh, insomma, a questo punto l'ha seriamente rimesso davvero in palio. Per quanto riguarda Beckham ci sono soltanto conferme, nel senso che il chirurgo che Beckham è già partito per la Finlandia, dove sarà operato tra poche ore. Il chirurgo che lo opererà ha confermato tutto quanto si era già capito ieri sera, cioè che la rottura del tendine d'Achille lo costringerà non solo a un intervento chirurgico, ma a un minimo di 3 mesi per iniziare a giocare e a calciare, per avere prestazioni ottimali da un altro mese a 2, il che significa che non c'è alcuna possibilità che Beckham possa prendere parte ai mondiali. Capello ha detto: sono molto triste per l'infortunio di David, dovrà saltare i mondiali e sarà un'assenza pesante. Gli ho parlato subito dopo l'incontro ieri sera, ha detto Capello, gli ho dato il mio sostegno, è un grande professionista, aveva lavorato duro per essere pronto per questo mondiale e sarà per noi una grossa perdita. Cominciamo con l'ascolto, in attesa delle vostre prenotazioni, con l'ascolto delle voci di ieri, e in particolare partiamo dalla serata, quando cioè Leonardo fa la sintesi tra questa vittoria ottenuta a tempo scaduto grazie a una prodezza di Beckham e il disastro di Beckham di Seedorf, intendo dire il disastro di Beckham di pochi minuti prima, con quel saltello, quello stop e saltello successivo, che insomma a un occhio un po' allenato hanno fatto capire subito che cos'era accaduto e che tipo di infortunio si trattava. Sentiamo Leonardo. Io credo che noi dobbiamo andare sulla nostra strada, sin dall'inizio, partita dopo partita, concentrandoci nel nostro gioco, nel migliorarlo, di mantenerlo, recuperare un po' i giocatori. Io credo che è quello che dobbiamo fare, a prescindere se siamo a un punto, a 10, io credo che noi dobbiamo essere concentrati su di noi. La rabbia ci vuole sempre, si è vista anche in Pippo, e quello ci vuole, sicuramente. Io l'ho soprannominato Garrincia perché oggi è entrato e dribblava tutti. Io credo che nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene, l'atteggiamento anche nel primo era molto positivo. Questa serata alla fine rimane una vittoria spettacolare, ma rimane l'infortunio di David, perché questo infortunio qua ci ha colpito tanto, il ragazzo che è, il modo in cui si comporta, e anche oggi la richiesta a lui era infinita, perché doveva fare l'attaccante, il centrocampista, l'uomo di fascia, doveva fare tutto e l'ha fatto. E finire con quell'infortunio sicuramente rimane una tristezza grande. Pensano che Inzaghi dribblasse come Garrincia integra la possibilità che gli eredi di Garrincia querelino, ma era evidentemente una battuta quella di Leonardo, dovuta anche alla relativa euforia del momento. Dico relativa perché di mezzo c'era questo grave infortunio a Beckham. Damiano da Roma domanda: Milan-Napoli-Livorno, 3 pareggi consecutivi per la Roma, 3 punti guadagnati o 6 punti persi? Beh, nel caso di Roma-Milan direi un punto guadagnato per come era andata la partita. Nel caso del Napoli un punto guadagnato se si calcola la difficoltà della trasferta, e invece 2 persi se si pensa che la Roma a pochi minuti dalla fine vinceva ancora 2-0. Quello di ieri decisamente sono 2 punti persi, fermo restando che la Roma continua ad avere una serie positiva strepitosa. È vero che ha pareggiato le ultime 3 partite consecutive, però veniva da una serie impressionante di vittorie, quindi io credo che in queste volette finali i giudizi definitivi non contino, perché adesso per esempio la suggestione di quest'Inter che continua a perdere punti è che l'Inter sia destinata a subirlo il sorpasso. Io ci andrei un po' pianino. Alla stessa maniera la suggestione dopo 2 punti buttati come quelli di ieri dalla Roma a Livorno, addirittura con un rigore sbagliato sul 3-2, potrebbero portare a dire che la Roma è tagliata fuori. Io ci andrei pianino. Certo, se poi ci si proietta, si vede che domenica prossima La trasferta dell'Inter a Palermo è certamente una partita molto difficile, almeno quanto quella col Catania sulla carta, anche qualcosina in più. Milan-Napoli è tutt'altro che un ostacolo lieve per il Milan, tutt'altro. Roma-Udinese dovrebbe essere una partita più abbordabile, e quindi potrebbe essere una giornata pro Roma. Peccato che la Roma debba giocare senza, leggevo prima, quattro squalificati contemporanei che si chiamano De Rossi, Pizarro, Mexès e un altro di cui adesso mi sfugge il nome, ma è Taddei, quindi tre uomini del centrocampo più Mexès. Ora, in questo momento non avere Mexès ho l'impressione che possa essere anche un danno relativo, non dico che è come se la Juventus non avesse Grigera, ma insomma non siamo lontani da lì. Però i tre di centrocampo invece, anche se De Rossi non è in un grande periodo, insomma sono tutt'altro, sono assenze di tutt'altro peso. Sentiamo il protagonista assoluto della partita di ieri sera, cioè di questo Milan meno uno, e cioè Seedorf. Dopo una lunga diciamo percorso siamo arrivati così vicino adesso alla vetta, e questo deve essere un punto di partenza per noi, sapendo che l'Inter è a un punto. Dobbiamo continuare, abbiamo tutto a favore nostro per poter fino alla fine lottare per lo scudetto. Io quando entro per i compagni e cerco di fare sempre il meglio possibile. Poi un po' di fortuna si vuole sempre, se uno riesce a fare gol o fare la differenza, però la squadra ha lottato tutta la partita per vincere, siamo andati vicino qualche volta, un po' di fortuna se vuole. Oggi sono riuscito a portarlo io, però ancora questa è una vittoria della squadra, vittoria di tutto un anno di lavoro, e di essere adesso a un punto della vetta, ancora punto di partenza. Chi segue questo appuntamento sa che Seedorf è sempre stato un mio pallino storico, e ieri sera, prima ancora della prodezza che poi ha deciso la partita, secondo me la prodezza assoluta è la frase che lui ha detto a Leonardo quando finalmente si è deciso a farlo entrare, perché insomma Seedorf, come tutti i grandi giocatori, sta patendo e non poco questa situazione di part time, questo impiego part time, e quando Leonardo l'ha fatto scaldare a lungo, quando il riscaldamento secondo Leonardo poteva essere finito, ha guardato Seedorf e gli ha detto sei pronto. Seedorf non ha annuito, gli ha risposto secco: io sono nato pronto. E trovo che sia una cosina carina, un po' come Muntari, no? che si è fatto trovare pronto anche lui a Catania, stabilendo un record assolutamente incredibile. Allora, lui non, da quando entra non tocca mai il pallone, nel senso che la prima volta che tocca il pallone è per fare il fallo della prima ammonizione. Sul fallo tocca una seconda volta il pallone con il braccio in barriera. In realtà sono 11 secondi effettivi di gioco come sequenza, e credo che sia un record negativo storico assolutamente per un giocatore di Serie A. Tornerei in onda con un messaggio di Roberto da Lodi che dice: venerdì ho visto Maicon perdere due palloni e non recuperare la posizione. Mi domando che cosa avrebbe fatto Mourinho se fosse successo a Balotelli. Beh, è una domanda, Roberto, è una domanda polemica la sua, ma una domanda quanto mai d'attualità, perché i convocati dell'Inter per trasferti domani sera a Londra usciranno ufficialmente alle 17, ma secondo Sky Sport 24 e secondo anche il sito della Gazzetta, tra i convocati non c'è Balotelli, proprio per scelta tecnica, non per infortunio, non per problemi fisici, ma per scelta tecnica. Stiamo aspettando conferme di questa notizia, a parte che già mi pare che queste due fonti che ho citato siano abbastanza autorevoli per accreditare questa tesi. Ma certo, la rinuncia per scelta tecnica a Balotelli in una partita del genere, soprattutto dopo quello che Balotelli, entrando, subentrando a un certo punto, aveva fatto all'andata, come minimo è, adesso devo trovare l'aggettivo, come minimo è spiazzante. Facciamo spiazzante da per il momento. Proseguiamo con le voci di ieri. No, adesso cominciamo a dar spazio ai vostri interventi e poi vediamo di miscelare questo doppio canale di voci, per l'appunto. Sentiamo quella di Mauro che ha chiamato da Rimini. Buongiorno. Signor Granzini, buongiorno a lei. Dica. Un brutto episodio che mi è accaduto ieri, faccio l'arbitro di calcio, che un giocatore mi ha colpito con due pugni sferrati al 49esimo del secondo tempo per una ammonizione. Lei arbitra, mi scusi Mauro, lei sì. Arbitra in che partita era? Seconda categoria, provincia di Rimini. Provincia di Rimini. 49esimo del secondo tempo. Sì. ammonisco il portiere perché rimette la palla al di fuori da una rimessa dal fondo, la rimette dal di fuori dall'area di porta. Sì. Lo richiamo a rimetterla dove deve andare, inizia ad urlare, allora io da circa 6-7 metri l'ammonisco per la protesta, questo parte, mi si avvicina, io sono chino a segnare sul taccuino l'ammonizione, vedo l'ombra arrivare, poi vedo il pugno in faccia, un pugno allo stomaco, e indietreggio, dopo da lì ho avuto quei 10 secondi di farfalline presente. No, per fortuna, non ho, per fortuna non ho presente, però mi dica però, una cosa, sì. Ma l'ha denunciato Mauro? Mi auguro. Ieri, adesso io non posso, non sono io che decido, quindi il giudice sportivo quando prenderà la decisione in base a quello che ho scritto, quello che devo ancora scrivere, perché ho appena finito i giri all'ospedale per l'accaduto, però quello che mi sconcerta di più è il fatto che alcuni dirigenti a rincuorarsi di Nike non ti ha fatto niente, ho capito, non mi avrà fatto niente, però comunque il gesto, un conto è contro di me che ho 41 anni e 20 anni di tessera di arbitro, un conto se lo fai con un ragazzino di 18-19 anni, questo prende paura e smette di arbitrare. Beh, insomma, comunque come io. Una che ha colpito me ha 43 anni, quindi non è che dice un ragazzino. Cioè il portiere. Il portiere della squadra ospita ha 43 anni. Mm. Di che squadra si tratta? Si tratta di Colonnella Rimini, Dino Mondaino. Dino è la squadra ospite, il portiere del Dino che mi ha colpito. Mauro. Ci sono rimasto perché non mi è mai capitato. Beh, ci siamo rimasti anche noi, ma se permette, perché in genere insomma, è altro, no? questo programma, poi è anche questo, per carità, infatti sono una testimonianza, ma di quelle che davvero poi ti lasciano abbastanza senza parole. Io comunque la inviterei non solo a un referto come si deve da adulto maturo 41enne che di sconti non ne fa, né al colpevole né alla società che poi minimizza, come primo provvedimento. Dopodiché, se per caso non bastasse, cioè, credo che uscendo dalla cosiddetta clausola compromissoria e quindi chiedendo il permesso ai suoi superiori, lei abbia la possibilità, anzi appare mio il dovere di denunciare anche in sede penale un episodio di questo genere. La saluto, la ringrazio, le auguro buona guarigione, anche se mi sembra che tutto sommato l'abbia presa, no? Come, con una certa sportività. E passerei in provincia di Verona da Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei dottore. Beh, dica. Ciò che ho appena sentito le parlo di ancora frivole, perché le parlo della partita di ieri sera. Qua c'è un po' di amarezza ovviamente, perché col Milan non siamo mai molto fortunati. No. Qualche anno fa, al settimo minuto dopo 5 di recupero, prima ancora, se si ricorda, Cesare, ricordo un rigore regalato a Shevchenko, il primo anno che il Chievo era in A, in Milan Chievo, è vero, ricordo male? Bravissimo, non ho proprio quello. Un rigore regalato a Shevchenko in cui il più sbalordito in tutto lo stadio quando Cesare fischiò il rigore era Shevchenko stesso, che con aria molto candida guardò Cesare, che poi da lì avrebbe fatto per qualche anno l'opinionista fine. Ha pontificato per anni dopo in televisione, ma lasciamo stare queste cose che succedono. No, ieri sera vorrei spezzare una lancia anche in favore delle guardialine. Vabbè, appena rivedi poi quell'immagine gliela spezzeresti sulla testa, perché insomma, Davide contro Golia, appena vedi che Davide riesce a sferrare un pugno dici ma come, dammelo buono, tanto fatica ho fatto, però alla fine non me la sento. Ho visto su dei forum stamattina che c'è un disegno dietro, vogliono aiutare il Milan. No, non penso c'è niente di tutto questo, perché alla fine non può con l'occhio sinistro fermare l'immagine nel momento in cui parte la palla e con l'occhio destro vedere un movimento. Massimo, io credo che l'errore di ieri sera sia di quelli che si possono accettare, infatti mi sembra che l'abbia accettato con molta sportività Di Carlo, l'ha accettato con molta sportività il Chievo, perché è un incrocio dinamico, non solo, ma la sensazione, forse perché Iepes è così grosso, ma la sensazione proprio corpulento, la sensazione è che lui in quell'area, in quel momento sia in una posizione discutibile, poi invece quando si stoppa l'immagine, discutibile, anzi sbagliata la scelta dell'assistente, perché perché Iepes era certamente in posizione regolare, quel gol era buono e sarebbe andato in vantaggio il Chievo, mi pare sul finale del primo tempo, quindi probabilmente cambiava molto. Lascerei stare, nonostante alcuni messaggi che stanno arrivando dai tifosi interisti, lascerei stare i disegni o le congiure, però non sarei nemmeno innocentista come lei, nel senso che se per il Chievo, per esempio, gira sempre in un certo modo e per il Milan da mesi gira in un certo altro, io non penso ai disegni, penso soltanto che il Milan sia troppo fortunato, per esempio, no, in questa circostanza, e che di conseguenza qualcosina che non torni comincia a esserci, perché è un puro fatto statistico, nel senso che gli errori, con gli errori siamo abituati a convivere, se gli errori sono sempre in una stessa direzione per mesi consecutivi, beh, insomma, ma credo che qualcosina sia, qualche puzzetta di bruciato sia anche lecito cominciare a sentirla, tutto lì. Osvaldo ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo chiedere un suo parere, sì, su questo Doni che ogni 4-5 domeniche si becca una squalifica sempre per proteste. Ieri ha detto qualcosa di pesante all'arbitro, probabilmente è stato espulso. Sì. Anche per i compagni che giocano con lui, ogni qualvolta rimanere senza un giocatore, comunque un giocatore abbastanza in là con gli anni, va ad essere esperto. Sì, e invece peggiora, nel senso che era stato risparmiato, mi pare, proprio una settimana fa, non so più se una o due settimane fa, forse la settimana scorsa, era stato risparmiato per una serie di gesti e di minacce in campo davvero insopportabili per un giocatore della sua qualità, perché poi Doni è un gran giocatore, e c'è cascato, niente, gli è andata bene, gli ha fatto uno sconto, l'arbitro non se n'era accorto di nulla o ha finto di nulla, se per caso se n'era accorto, niente, c'è cascato la domenica successiva, e certamente per una squadra come l'Atalanta, che sta lottando sul filo dei punti e la cui lotta diventa sempre più difficile, avere il giocatore più rappresentativo e tecnicamente più bravo, su questo non c'è discussione, cioè Doni, che anziché pensare alla causa comune si fa travolgere dai nervi, è indubbiamente nocivo, questo è sicuro. Ha chiamato Claudio da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, due cose, per quanto riguarda il Milan, diciamo che è un po' fortunato, e fin lì posso anche capire che i fuorigiochi si possono vedere o non vedere, però che Ronaldinho faccia questi interventi e non gli venga dato mai neanche una munizione è una cosa che mi dà un po' fastidio. Sono d'accordo con lei, anche perché è la seconda volta in due partite consecutive. Seconda cosa, io sono interista, io dico questo, cioè, non ci sarebbe nessun problema se non fosse per Mourinho. Perché l'Inter è una squadra che non dovrebbe avere problemi ad andare fino in fondo. Il problema è Mourinho, per come tiene, diciamo così, sulla corda i giocatori, per come è gli animi, e soprattutto per come si comporta, per esempio, con Balotelli, oltre che per il fatto che ha i secondi tempi che sono da cancellare, perché un allenatore che fa i secondi tempi come Mourinho con i cambi, e l'ha già fatto una volta con la Juve, altra volta l'ho visto che è andata bene tipo con Siena, cioè questo è un pazzo completamente, perché solo un pazzo mette dentro 5 attaccanti, leva tutti i centrocampisti e fa quello che ha fatto lui. Se hai culo ti può andare bene, ma può andare bene una volta, 5 volte perde. Sì Claudio, grazie. Nel frattempo è arrivata anche l'ANSA da conferma di questa esclusione di Balotelli dalla trasferta di domani di Londra. L'ufficialità, scrive l'ANSA, dovrebbe arrivare solo nel pomeriggio, quando Mourinho parlerà a Londra in conferenza stampa, ma a quanto si è appreso il portoghese ha deciso di escludere Balotelli dai convocati. Si tratta di una scelta tecnica ovviamente mal digerita dall'attaccante dell'Inter, che è stato visto lasciare il ritiro di Piano Gentile a bordo della sua auto al termine dell'allenamento. Torniamo a qualche voce. Io sentirei quella di Zaccheroni, è un po' lunga per la verità, perché sono 1 minuto e 20 secondi, però magari la rimandiamo eventualmente più tardi. Certo che finora non da questi primi discorsi del lunedì è rimasta fuori quest'altra, adesso non dico farsa, ma quasi, di Torino, perché insomma sinceramente 3-0 dopo quei 10 minuti e a 3-3 finale con un paro degli altri e rischio la partita addirittura di perderla, a parte che pareggiarla o perderla, visto che il Palermo aveva perso, non faceva questa grande differenza, è assolutamente incredibile. Seguo sempre la vostra trasmissione, scrive Massimo. Mi domando se è normale che ieri in curva della Lazio ci fosse un candidato alla presidenza della regione. Non poteva andare in tribuna, oppure succede solo da noi questo utilizzo politico delle curve? Massimo, non so, questo è un argomento un po' delicato, perché siamo anche in par condicio, vigilia elettorale, eccetera. Adesso cercherò nei prossimi giorni un'identica prodezza, performance, la chiami come vuole, da parte di un candidato di altro segno, di altro schieramento. Certo che vedere, tra l'altro, una signora a cavalcioni di un parapetto circondata da ultra, esattamente in posizione da ultra capopopolo, in una delle curve più tristemente politicizzate d'Italia, non è stato un bel vedere, sinceramente. Parte il fatto di quanto abbia portato buono alla Lazio, ma questo poi è tutto un altro discorso. Tommaso da Foggia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, io volevo fare tre considerazioni veloci. Sì. La prima, non so Seedorf che partita abbia visto, insomma, perché ieri Chievo ha dominato ma il Milan ha vinto. Secondo, Seedorf non so che partita ha visto per 79 minuti, so che da quando è entrato ne ha giocata una discreta, ecco. Sono d'accordo con lei. Mourinho sia l'unico allenatore capace di vincere all'Inter. Quel gesto che lui ha fatto delle manette probabilmente gli sta costando lo scudetto, ecco, in quanto Baresi non è Mourinho. Terza considerazione, credo che la Roma sta buttando via perlomeno la possibilità di crederci. Del resto, se si sente neri dire che l'Inter rimane la favorita, mi chiedo allora l'allenatore che incoraggiamento dalla squadra. Tommaso, io ho imparato in tutti questi anni a filtrare quello che gli allenatori dicono pubblicamente e a considerarlo ben diverso rispetto a quello che poi dicono alla squadra, cioè le parole vere che pesano e che contano. Io trovo che Ranieri stia gestendo con molta saggezza la Roma e credo anche, ma questi sono numeri, che Ranieri in questo momento abbia gli stessi punti che hanno l'Inter e il Milan, in realtà, perché lui è arrivato alla terza giornata, mi pare, a Roma, a parte il fatto che poi ha anche fatto un po' di fatica a rimetterla in piedi, ad assemblarla, ma le prime due giornate, o comunque la prima sicuro, se non ricordo, non c'era. Il percorso che la Roma ha fatto in questi ultimi mesi, non settimane, mesi, è un percorso assolutamente di vertice assoluto. Non l'hanno ancora inventata la squadra che vince sempre. Il fatto che ancora non abbia perso significa che la squadra c'è. Sono curioso di vedere come se la cava domenica prossima con l'Udinese, senza quattro squalificati di quella portata, quelli che ricordavo prima, e poi eventualmente tireremo un paio di sommette, considerando anche che tra un paio di settimane è previsto il confronto diretto dell'Olimpico, e cioè Roma-Inter. Marco ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Sono della Roma. La chiamo perché non ero d'accordo sul suo commento su Mercedes per la partita di ieri, perlomeno. Questo perché reputo più responsabili Motta, che nell'applicazione del fuorigioco sembra che se ne dimentichi sempre, e più che altro Mexes penso che abbia subito la giornata no di Juan ieri riguardo ai gol che abbiamo subito. Sì Marco, io non mi riferivo tanto a ieri in particolare, mi riferisco a un periodo. Io credo che Mexes abbia delle qualità da campione, qualità fisiche, tecniche e di personalità da campione. Trovo anche che il suo rendimento non sia praticamente mai all'altezza della sua fama, salvo rarissime eccezioni. Da qui quel commento di prima. Poi riferito a ieri, ci saranno anche responsabilità diverse. Rimane pur sempre il fatto che Mexes dovrebbe, ripeto, per le sue qualità dovrebbe essere il leader di una difesa, e quindi il responsabile principale di una difesa che ieri comunque prende tre gol da Lucarelli, che non li segnava credo dalla Seconda Guerra Mondiale, no? Ed essendo una partita di una discreta importanza, mi sembra molto significativo, forse anche troppo. Ha chiamato Piero da Como. Buongiorno. Sì, buongiorno signor Gancini. Senta, mi rifaccio alla questione che avevate parlato circa una settimana, due settimane fa, in cui chiedevate se Mourinho fosse veramente un buon allenatore o meno, se fosse l'allenatore giusto per l'Inter. Cioè, io la mia considerazione è contraria. Siamo sicuri che l'Inter abbia bisogno, con tutti i giocatori, con tutti i campioni, che abbia bisogno di un allenatore che sappia veramente stare in campo, cioè saperne di calcio e non saper gestire un gruppo? Perché secondo me la forza vera di Mourinho è quella di riuscire a tenere 11 giocatori, di 15 anche 20 giocatori campioni, e saperli gestire, perché comunque le abbiamo avuti i buoni allenatori in 12 anni di 13 anni di Moratti, in cui ha messo sempre grandi campioni a disposizione. Abbiamo avuto anche un signor campione del mondo, ma nessuno è mai riuscito a vincere nulla, se non che Mancini in 2 anni in cui francamente non avevamo avversari. E quindi non ho capito alla fine qual è la sua tesi. No, la mia tesi è quella che secondo me l'Inter, con i giocatori che ha, potrebbe allenarla, sì, il custode del mio condominio, e vincere comunque, ma deve avere questo carisma, questa forza, questa compattezza per saper gestire un gruppo, insomma. Cioè, questa è la sua gran forza, non tanto praticamente, perché le ha prese da Mazzarri, ho capito, no, ma al di là di prenderle o non prenderle, quello non riuscivo davvero, non ho davvero capito la tesi. Io ho qualche dubbio sulla bontà di questa gestione del gruppo, dubbi che mi nascono da cose che vedo, anche qualcuna che sento, ma insomma la maggior parte le vedo. Poi guardi, è questione di non aspettare, cioè, ormai non c'è più molto da aspettare per un giudizio, non dico definitivo, perché il giudizio definitivo su una persona o su un professionista non c'è mai, ma insomma, diciamo, un pochino più compiuto è possibile che ci sia, abbastanza a breve. Angelo, Venezia, buongiorno. Buongiorno, sono un tifoso della Juve. Sì. Mi chiedo se non ci sono giocatori in Serie B, in Serie C più forti di Grigera, Salimidic, questa gente qua. Io non so, ho visto Zaccheroni qua a Venezia qualche anno fa ed è un grandissimo allenatore. Non riesco a capire come possa giocare certa gente. E poi un'altra cosa importante: la Juve a livello giovanile negli ultimi anni sta dominando. Non ci sono giocatori più bravi di questi, che sono veramente scarsi. Ma non so, io anche Montari dell'Inter, perché ci sono, in Serie B ci sono giocatori più forti di questi. Beh, italiani, non tantissimi, ma in C magari. La B mi sembra ad una tristezza. La B attuale mi sembra una tristezza qualitativa abbastanza impressionante. Può darsi che ci sia qualcosa anche nelle categorie inferiori, può darsi. Io non so chi sia l'esterno destro della primavera della Juve, ritengo assai probabile che possa essere, che potrebbe farla qualcosina più di Grigera, insomma, perlomeno del Grigera visto ieri, ma non solo ieri, negli ultimi tempi. Certo, ripeto, è quello che è successo ieri, le esitazioni di Grigera, anche, le dirò, anche il modo in cui Cannavaro rincula nell'azione del primo gol anziché uscire ad affrontare Maccarone, insomma, sono segnali particolari, insomma. Angelo, grazie. C'è Giuseppe dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, ciao Garanzini, mi chiamo Giuseppe. Sì. Allora, sono un tifoso della Pro Patria. Sì. Simpatizzante milanista. No, premetto una mia considerazione: non riesco mai a capire quelli che di Palermo, di Venezia o di Sassari, che tifano magari Juve, Inter e non proprio la squadra della propria città. Fatto questo, poi ognuno faccia quello che vuole. Sì, anche perché non vabbè, comunque. Cioè, una mia considerazione, sì, come sì, senso di appartenenza è una cosa diversa. Comunque no, non mi sarei mai aspettato di difendere l'Inter nel caso di Balotelli, però io ho notato che da quando Balotelli ha cambiato il suo procuratore sono stati sufficienti qualche gol, qualche titolone dei giornali che sono facili a farli, e subito il Balotelli ha iniziato a, forse ci ha creduto anche lui di essere un fenomeno, non lo so, e secondo me l'Inter adesso lo sta in un certo senso proteggendo. Sembra una cosa assurda, ma non so cosa ne pensa lei. Ma io penso che tutto questo intervento sarebbe da ristrutturare, dalla prima all'ultima parola. proteggendo, cosa vuol dire proteggendo? Cioè non lo convochi per il Chelsea perché devi proteggerlo? No, andrebbe protetto lui da probabilmente da alcune cose, indubbiamente. Io non credo che l'Inter sia stata felice di tornare ad avere a che fare con un certo Raiola, che è il nuovo manager di Balotelli. Non credo nemmeno che la se è vera, ma pare documentata, la nuova amicizia con Corona possa giovare al presente e al futuro di Balotelli. Credo che una coppiata come Raiola-Corona potrebbe distruggere chiunque altro che Balotelli, però detto questo, al momento il giocatore in campo potrebbe servire così a occhio, e recentemente quando è stato impiegato è servito. Altri hanno goduto di trattamenti non così severi da parte di chi invece con Balotelli è implacabile. Tutto questo, secondo me, qualche domanda la può anche suggerire. Roberto Bologna, buongiorno. Buongiorno dottore, sì. Io chiamo da Bologna, tifoso del Bologna naturalmente, concordo con il ragazzo di prima che diceva che non capisco chi tifa per la Juve, per esempio abitando qua a Bologna ce ne sono tantissimi, ma non era questo l'argomento che no, io comunque mi divido tra Milano e le Langhe e l'unica squadra per cui tifo, che è una parola grossa e non è vero, ma l'unica squadra per cui simpatizzo con molto calore è Barcellona, quindi vede che i gusti no sono... Ci siamo allargati abbastanza, certo, in campo europeo, direi. Sì. Anche perché l'Europa con quel che c'è costato, insomma, non vedo perché restare all'Italia delle signorie, no? Sono d'accordo. L'argomento che le volevo sottoporre, mi interessava il suo parere, le convocazioni di Lippi in nazionale. Io sono un po' stupito, e qua a Bologna lo siamo un pochino tutti. L'anno scorso Di Vaio ha fatto un campionato meraviglioso, 24 gol, ha tenuto in piedi la squadra praticamente da solo, e questo mi convoca Pellissier quando era, secondo me, il caso di provare a vederlo. Di Vaio, probabilmente hanno avuto qualcosa fra di loro, li lasciamo stare. Quest'anno Viviano mi sembra che stia facendo un campionato meraviglioso anche lui, un grandissimo portiere, giovanissimo, 24 anni, bel fisico, c'è tutto, e questo mi convoca Sirigu, giovane anche lui, tutto quello che vogliamo, però guardiamolo questo Viviano. Guardiamo anche Sirigu, è altrettanto giovane, forse anzi è più giovane di Viviano. Io trovo che sia un eccellente portiere Viviano, trovo che sia molto interessante Sirigu. Adesso io capisco che lei è di Bologna e mi ha anche teorizzato il fatto che si può tifare soltanto per gli autoctoni, però insomma questa mi sembra un tantinello tirata per i capelli, ecco. Grazie Roberto. Ho letto disseminati qua e là un po' di messaggi ironici sul conto di Chimenti, il terzo portiere della Juve. Mi domando cosa avrebbe potuto fare ieri Chimenti se non raccogliere tre palloni in fondo alla rete. Mi domando anche cosa abbia fatto di male per avere davanti a sé Grigera, Cannavaro e gli altri di ieri. Questa semmai sarebbe la domanda, ma sinceramente non capisco dove possano essere le responsabilità di ieri di Chimenti, che resterà tra i pali della Juve, tra l'altro, perché la prognosi per Manninger è di una ventina di giorni, leggo adesso su un'agenzia, per una distrazione al retto femorale della coscia destra. Il ripasso di storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 marzo 1978. La Juventus guadagna l'accesso alle semifinali di Coppa dei Campioni eliminando l'Ajax ai calci di rigore a Torino. Protagonista principale della serata è Dino Zoff, che neutralizza i tiri dal dischetto di Gels Van Dord. Il rigore decisivo lo trasforma Franco Causio, già fondamentale all'andata, quando aveva firmato il gol dell'1-1 finale. Il cammino dei bianconeri si chiuderà in semifinale, ad opera del sorprendente Bruges, che poi perderà la finale a Wembley contro il Liverpool. Da interista ha ragione Leonardo, scrive Stefano, con un episodio a favore non si può decidere un titolo. Con 11 di fila, e naturalmente Stefano esagera, il discorso cambia. Sì, cioè, è un messaggio che ci sta, poi ovviamente 11 mi auguro che sia un numero paradossale e non un conto e non un conteggio che Stefano davvero ha fatto seriamente. Poi ci sono molti messaggi di ascoltatori, appunto, che non sono tanto d'accordo con i due loro predecessori, no? Cioè secondo cui si può tifare o simpatizzare o comunque soltanto per la squadra di casa, perché sinceramente questa non l'avevo ancora sentita. Comunque, Sergio, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io sono da Treviso e tifo Inter, Fernando. Sì. C'è un po' di differenza di luogo. Volevo dirle una cosa, non nota anche lei una similitudine tra il comportamento di Mourinho con Balotelli e quello della classe arbitrale con l'Inter? Secondo me in entrambi i casi c'è la volontà di bacchettare per insegnare qualcosa, probabilmente. Volontà di bacchettare, bene, nel primo caso sì, certamente sì. Al di là di un'antipatia, stavo per dire di pelle e per fortuna me l'ero tenuta, al di là di un'antipatia evidente che Mourinho ha per Balotelli, per i suoi comportamenti, insomma, non ha molta importanza. Nel secondo non direi, perché non mi pare che l'Inter si stia comportando in maniera molto diversa dalle scorse stagioni. Diciamo che l'Inter era abituata anche a qualche sconto di troppo, che invece quest'anno mi pare sia venuto meno, dal punto di vista proprio di qualche eccesso agonistico, dal punto di vista di qualche tutto dovuto, ecco, e questo è il côté interista. Poi invece qualche sconto statisticamente e numericamente significativo c'è nell'altra direzione, e anche questo mi sembra che sia abbastanza innegabile. Luca Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo parlare del fatto di Muntari e di diciamo di Quaresma, che sono stati, diciamo, entrambi consigliati dal grande Mourinho. Beh, Quaresma importato direttamente da Mourinho tramite lo stesso procuratore suo. Muntari probabilmente lo zampino c'era. Però io volevo dire il fatto che si è fatto comprare sia Quaresma sia Muntari, e vediamo i risultati che stanno dando. È stato preso per vincere la Champions League l'anno scorso ed è stata l'ultima classificata della classificata agli ottavi, e poi a fine anno ha preso pure, diciamo, l'aumento. Io voglio sapere da lei, da un punto di vista della moralità, fermo restando che ognuno con i propri soldi può fare quello che vuole, ma il fatto che si è fatto aumentare lo stipendio è passato da 9 a 11, cosa ne pensa lei su questo aspetto? Che L'ho detto l'estate scorsa, Luca, e non quando accade, e non ho intenzione di ripeterlo, tanto è intuitivo, no? Sono storie vecchie che poi magari torneranno di attualità. Adesso lasciamole così. Sentiamo invece qualche altra voce, magari ereditata da ieri, e per esempio quella di Guidolin, perché mi pare che il Parma ieri abbia chiuso in maniera abbastanza definitiva la pratica salvezza, che non è molto per una squadra che era partita così forte, ma dopo la flessione che c'era stata, credo che comunque sia a 10 giornate dalla fine un eccellente obiettivo stagionale centrato. Guidolin. Era diverso tempo che qui a Parma non si poteva pensare di iscriversi al campionato prossimo di Serie A con 10 giornate di anticipo, e io sono orgoglioso di avere un gruppo di ragazzi che ha conseguito questo risultato, perché adesso, a meno di pazzie, noi il Parma farà il campionato di Serie A anche l'anno prossimo. Questa è la cosa che emerge dalla nostra stagione bellissima per il momento fino ad oggi, speriamo di renderla più bella da qui alla fine, ma la soddisfazione è grandissima, perché dove non sono stati capaci altri noi siamo riusciti, e questo a me piace molto, queste sfide mi piacciono molto. Coronare questo sogno a 10 giornate dalla fine o quasi, per me e per noi, è un motivo di grande soddisfazione. Adesso conta solo questa felicità che ho dentro, perché era un impegno che volevo dimostrare di poter ottenere, un impegno che volevo dimostrare di poter ottenere, perché è sempre andata così in tutte le stagioni che ho e in tutte le squadre che ho allenato. Sono arrivato qui il 30 settembre, che la squadra è in Serie B, è in situazione molto pericolosa. Adesso a 10 giornate dalla fine può festeggiare, e la società, cosa importante, altra cosa importante per un allenatore aziendalista, il pensiero che la società può programmare per il futuro. Queste sono cose che mi riempiono di orgoglio, poi se ce l'ho io o meno, io i rumors li sento, ma faccio finta di non sentirli. Tocca a Paolo da Carrara, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Io sono un tifoso romanista. Sì. Anche se si sta a Carrara, vede, ogni tanto ci sono tutti divisi tra Juve, Milan, Inter, io sono romanista. Sì, ma Marina, guardi, ha appena scritto Marina un bel messaggio che dice: si dovrebbe allora tifare, se non ho capito male, la squadra del luogo di nascita o quello di residenza o quello del domicilio o che altro ancora. Che scemenza, ha commentato per scritto Marina con una formula elegante, in disuso, ma molto elegante e molto piena di significato. Dica Paolo, scusi. No, le volevo chiedere io, sì. Non vede un po' in questa Roma